chi è avanti? Avanti, chi è? Dici prova. Cosa vuoi provare? Già c'è qualcuno vivo allora. Io già ci sono. Oggi anche c'è festa, vabbè, a causa situazioni familiari, sono a casa, a causa influenza sono a casa. Ma come si fa a pigliarsi, cazzo? Un raffreddore, un'influenza, con il suo gaglio, boh, solo io ci sono riuscito. Ciao Natalino. Ciao, io sono anche vaccinato e me la sono presa lo stesso l'influenza, dimmi tu. Mi ha preso a forza e mi ha vaccinato che dice che sono a rischio. Naturalmente mi ho preso in forma leggera, però prima un po' di mal di testa, leggero, poi il mal di testa è aumentato, un po' di leggero mal di gola, poi il naso è diventato un blocco di cemento, scendeva a Querugio alla Fiumi, orecchie chiuse, occhi che bruciavano, un casino, guarda. Sono 2 o 3 giorni tappato a casa. Vabbè che non dovevamo andare a Lugo, ma così dove andiamo, capito? Infatti, sono un microfono normale, l'originale suo, pesa un trono. Un bijou sei da lì, un bijou. Ma trovi che pesi quel microfono, eppure è plastica, mi. C'ha del ferro dentro e non sono riuscito a toglierlo perché deve essere incollato. Ma sai che non ci avevo proprio badato. Invece ho notato che l'amplificato nuovo pesa più dell'M93, molto di più. Con la parità di batteria, no? Con la batteria dentro. Ah, no, io sono col microfono originale suo. Perché non c'ho manco le prolunghe e quindi le MB4 non le posso attaccare perché è troppo corto e allora mi sto usando questo qui. Viene male con le MB4, è troppo corto il filo di quel microfono. C'avevo la prolunga, siccome c'ho solo questo, l'apparecchio qua e via, e non c'è nulla da fare. Boh. Finish. Vedi, però modulazione effetto presenza, capito? Ah, è quello, è poco ma sicuro. Esce bene questo microfono, anche se è l'originale, esce bene. Almeno solo che mi rompe le scatole che lo devo tenere in mano. Io l'MP4 lo usavo perché schiacciavo e basta, invece questo mi tocca tenere in mano. C'ha il ferro dietro il microfono, no? C'ha delle lastre di ferro, 5 lastre mi sembra che sono. All'anima? E come mai l'avranno messo? Ma per fare da protezione RF? No, deve essere per quando lo metti nel portamicrofono, per appoggiarlo bene. Ma cosa vuoi che ti dica? Pesa un trono infatti, proprio per quello, perché c'è il ferro dentro. Se tu lo apri vedi che c'è il ferro. Quindi un paio di giorni che non entro, forse anche 3. E per l'antenna com'era andata a finire? E gli ho aggiustato l'antenna a quello lì e non lo disturbo più. E quindi era messa male. Se adesso non disturbi sicuramente era messa malissimo. Malissimo è a dire poco. Figurati. Mamma mia, ma si sapeva, no? Lo sapevamo da tempo. Meglio così, dai. No, e per la tua antenna, l'hai lasciata così o l'hai fissata meglio? No, è fissata meglio. È fissata a quello del terzo piano, è fissata. Perché me ne sono venuti i vigili del fuoco domenica. Ero rimasto a quello lì che avevano chiamato i vigili del fuoco, poi non avevo più saputo altro. va bene, meglio così, risolte due cose. Ascolta, in distanza io ho avuto modo di, tipo Porto Torres, Sorso, di fare prove, Alghero. Sorso arrivo benissimo, arrivo. Sento bene a tutti, anche a Giovanni che lo sentivo basso basso perché c'avevo QRM sempre a Santiago 7. Lo sentivo basso, a Giovanni lo sento benissimo adesso. Visto, il cavo anche era, mi c'è un break. La tariffa lo venire avanti che mi ha suonato il timer che devo servire i tortelloni in brodo, dai. Scappala, avanti break. Ma cos'era, propagazione? Evidentemente sì, perché si è spostato subito l'ago, poi è salito torna di botto e poi si è entrato tu. Hola, Roma, qua la provincia di Matera. Me lo senti, la propagazione? Sì, sì, anche su altri canali ho sentito stazioni in FM arrivare bene, anche Natalia, adesso mi assento che sto impiattando. E dopo chiama che ti racconto la storia dell'antenna TV e ti metti a ridere. Ok, attenzione break. Avanti il break con la buonasera. Positivo, buonasera. Negativo il passaggio, l'amico. Propagazione non buona. Molto QSB. Non arrivi bene qua in Italia, Molto QSB. Ogni ambulotto che si sente. E lo so, però c'è anche molto QSB. Ecco, ho messo un po' di autosquelch. A proposito, buona festa della Repubblica delle Banane. Grazie, grazie. C'è un silenzio di tomba, devono essere tutti al mare, e fuori c'è un taglio da cribà, devono essere tutti al mare, beati loro, sto schiattando. Se puoi ripetere, Marco, che mia moglie ti ha sovramodulato. Ho detto c'è un silenzio di tomba, che devono essere tutti al mare, sto schiattando. È minimo, e ne ha approfittato, la gente fa anche bene. Dovrei andare anche io, uno di questi giorni. C'ho un piede che mi si gonfia, non quello malato, l'altro, mi si gonfia, boh, non so perché. Deve essere insufficienza venosa anche lì. Non saprei, comunque l'acqua salata di solito fa bene, e poi al limite basta stare sotto l'ombrellone, cioè prendere luce riflessa, non diretta magari, e se non ti cuoce, e benefici ci sono per fare le sabbiature pure. Lo so. Ah, ti stavo dicendo, cazzo, c'aveva l'amplificatore a manetta che bruciava le mani se la toccavi, perché stava andando invece che a 12 a 14 volt l'amplificatore, che è superfluo, perché gliel'abbiamo messo a zero e praticamente la televisione si vede lo stesso. Poi siamo scesi giù, oltre ai cavi marci che c'erano e balle varie, c'era l'alimentatore con i morsetti mollati, come l'abbiamo toccato ci sono rimasti i cavi in mano. Oi. E da quanti decenni ce l'aveva quell'impianto TV? Ah boh, non lo so, il figlio ha detto che è nuova l'antenna, invece ma che cazzo nuova, era col nastro isolante tutto sciolto, i cavi tutti penzoloni, c'era il partitore penzolone che si è staccato, gli ha detto, invece no, che è attaccato sempre, Edu, e l'antenna non si napuzzi. Adesso ci sono le fascette al posto del nastro isolante, i cavi sono messi bene, l'alimentatore con i morsetti stretti e tutto, abbiamo fatto le prove, perché col PMR ho chiamato mia moglie, gli ho detto metti la portante, gliel'ho detto 5 o 6 volte e la mollava quando glielo dicevo io, proprio per tenerla fissa, non arriva zinuta al televisore, era tutta l'antenna incasinata. figurati. E per quale miracolo si è riuscito a convincerlo a mettergli al posto? No, l'ha convinto la figlia, che la figlia c'aveva il baracchino, te la ricordi a Maria Rita tu, che parlava sempre con la moglie di Piero Drago nel canale 2. Fammi pensare, stiamo parlando degli anni 80, vero? Marina, Piero Drago, sì, ma Anna Rita o Maria Rita, stiamo parlando di mille anni fa, sì. Qualcosina ricordo, sì. Siccome conosce a mia moglie, e allora ha convinto il padre, perché lei non si parla neanche con gli altri fratelli. Quello, il grassone è quello che mi ha mandato all'ospedale per le incazzature, e la ex moglie di quella persona che sei tu. Capito? E praticamente mi ha fatto entrare, gli ho messo a posto tutto ed è andato tutto ok, capito? Se no la colpa era mia, io non dovevo parlare perché l'antenna sua andava bene. Sì, comunque come vedi col dialogo si risolve tutto, volendo trovare un punto di incontro si risolve tutto. E che non lo volevano trovare, alla fine hanno ceduto grazie all'intervento di questa persona. Visto, assai vi volia. E poi ne ho aggiustato altre due di televisioni che praticamente avevano inserito il polo caldo, la massa non era del televisore, capito? E allora gliel'ho messa a posto io e non li disturbo più. Ia. Bene, sono contento, dai. Quindi niente TVI, poi hai migliorato anche nel circondario di Sassari, cioè fuori Sassari è migliorato, quindi buono così, dai, il cavo è nuovo, cosa vuoi di più? Ho un bel lineare da 500 kW. E quando abbiamo la patente lo mettiamo. Adesso non ho gli apparecchi, me li ho venduti perché non voglio che venga la polizia a controllarmi intorno. E quindi c'ho solo questo. Ma già mi hanno sentito anche a Malaga con 4 watt. Sì, guarda che la propagazione già di suo fa miracoli. Quello che chiamava qui sul canale poco fa, io sto usando 3 watt, seppure 3 watt, e ci sentiva parlare, qui ci avrei 4 watt, in realtà eppure ci stava chiamando e si stava chiamando noi, spero. Sì, a me mi è arrivato fortissimo, Santiago 9 si è abbassato di colpo poi, perché la propagazione evidentemente non è stabile. Si è abbassato proprio di colpo, boom, cazzo giù di tutto. Prima l'ho sentito chiaro, c'era anche una radio un bel forte. Aspetta che tolgo l'autosquelcia perché sento modulazioni, non so se siano a Sassari che chiamano oppure là fuori. E anche io li sento, ma sono bassi. Porca miseria, c'ho questa tosse stizzosa, prima mi ha preso la testa, il naso, eccetera, adesso si è trasformata in tosse stizzosa, quel pizzicorino che sai, terribile, va tutta la notte così. Se la curi una settimana, se non la curi una settimana, giura. Oh, cioè praticamente le medicine sono prese in giro, perché tu anche non prendendole il decorso è sempre quello, così è. Deve fare il corso suo, o la curi o non la curi, sempre una settimana ti dura. Giù un preso, dai, mi ero fatto anche il test del Covid, siccome ne ho un po' da parte, quando ho visto il naso chiusissimo che colava, che non sentivo odori e sapori, ma sai cosa vuol dire? Avere un blocco di cemento iniettato nel naso, ho detto qua è strana la cosa, invece no, negativo, test negativo. Ma mi ha detto perché sei raffreddato che tu debba avere il Covid, Marco. Capito. È influenza stagionale, magari ti eri sudato e ti ha fregato? Oppure infreddatura, che ne so io. Aspetta che mi chiama mamma, la devo accompagnare in bagno, dopo. Vai, vai. Mamma mia. Vediamo se c'è... Natalizia ancora. Sì che ci sono, Marco. Eia, per caso hai sentito il profeta da poco? Vediamo se ha l'ascolto. Attenzione il profeta, ci sei? Perché lui aveva intenzione di cambiare antenna e io volevo vedere il suo segnale attenuato col 3009. Prima che cambia antenna ci vorrei vedere la differenza dal quarto d'onda, sempre attenuato, a quello che prenderà, o mezz'onda o 5 ottavi dalla Venom, non mi ricordo quale. Poi se entra glielo chiediamo, per vedere se c'è una differenza anche di mezzo Santiago, che ne so io. Guarda Marco, guarda se ho l'alternata, perché mi faceva l'alternata questo apparecchio, forse perché avevo degli apparecchi sopra. Guarda un po', lascio la portante muta un po'. Bene, sta lì che... Mamma mia, c'ho le orecchie ovattate di... Cazzo, le foderate di prosciutto, sono velate, non... puoi ripetere? Se sotto c'ho l'alternata, ho detto. Non ci troveremo qui. Appena appena sente uno specchio di... Chissà perché mi fa l'alternata questo apparato. Ma forse l'alimentatore sta lì. Che alimentatore è? Quelli switching da 30 ampere. Ma non sono quelli per baracchini o quelle strisce, quelli piatti per le strisce lette? No, quelli per baracchino sono, con gli strumenti. Deia, aspetta che mi chiama mamma di nuovo, arrivo subito. Marco. Deia. Ok. Stavo provando qua, pochi watt a questo apparato, tutti questi omologati li stanno facendo 2 watt e mezzo, 2,7 watt, massimo riesce a portarli a 3 watt, dipende poi, è 3, 3,2, 3,4, vabbè. E questo 4 watt c'ha. Cioè. Quello che mi dispiace è non posso salire nei canali alti, Se voglio farmi qualche DX in banda laterale non lo posso fare. Si sali, oggi è giornata di festa, tutti i pubblici uffici sono chiusi, anche gli ascoltoni lì. Ma questo è chiuso, non ci sale. Ah, lo devi a quello, vabbè. Sì, infatti io mi ero scocciato. Sì, ti spiego. Allora, se tu lo lasci sempre 40 canali omologato, c'è una parte della circuitazione che non funziona mai, no? Allora io ogni tanto, una volta all'anno, gli sposto quel ponticello, come ho fatto, per abilitare i 240 canali e fare funzionare tutta quella parte di circuitazione che normalmente rimane spenta, rimane disattiva, per evitare che si possano scaricare condensatori, che ne so, rovinare componenti per causa dell'utilizzo, capito? Ma io non lo posso fare, a settembre devo dare l'esame, più sono sotto tiro. Fai un sacrificio, i DX li fai qua. Faccio qualche domanda al quotidiano. Andrà bene a me, dai. Lo sai cosa sono andati a dire a mia moglie? Va? Che avevo gli armadi pieni di baracchini e io mai ho avuto dentro l'armadio un baracchino. Dico uno che uno. Cazzo, li ho messi sempre qua. Dice che persone che sono entrate qua hanno detto che c'avevo gli armadi pieni di baracchini. Nascosti. Ma anche se fosse, cosa vuol dire? Allora, se l'apparato non è collegato all'alimentazione e all'antenna, puoi detenere quello che vuoi, anche baracchini non omologati. Però una volta che li colleghi l'alimentazione e l'antenna, allora hai una stazione ricevitrasmittente installata e funzionante, ma se li tieni nell'armadio puoi tenere il cacchio che vuoi, ci siamo capiti. Sì. Oh, non sei uscito, Antalino. Ti volevo far notare che mi hanno diffamato. Benvenuto nella famiglia, se per le diffamazioni aggiungiamo a Libro Nero, cosa ti dica? Io mai avuto baracchini dentro l'armadio e questi vanno a dire una cosa simile. E l'hanno detto alla 50, non è a dire che me l'abbiano detto altra gente, l'hanno detto proprio a mia moglie, e quindi chi gliel'ha detto è persona sicura. Praticamente mi hanno diffamato, perché io baracchini, anche se li posso detenere quanto mi pare piace dentro l'armadio, non ne ho mai avuto. Io sì, io ho sempre detto che l'armadio è pieno di baracchini. Ma che senso avrebbe dirlo a tua moglie quando tua moglie vive con te e quindi lo saprà cosa c'hai e cosa non c'hai? Cioè... E infatti mia moglie se ne mette a ridere perché lo sa che io non ne ho baracchini dentro l'armadio. Erano sempre qua. Le radio che ho avuto le ho sempre tenute qua in bella vista, però ti giuro che qua non ci sale più nessuno se non è più che fidato. Io dico che di fidato non c'è quasi nessuno, per non dire nessuno, e per quello già non c'ho più nulla qua. Così quando vengono che siano benvenuti e che facciano il verbale che non ho trovato un cavolo, così la smettono di rompermi le scatole. Sì, infatti, poi una volta ottenuta la patente, futidini, te le metti tutti nel QSO, questi che fanno storie, capito? Ah, io una volta che ho la patente posso fare quello che voglio. Mamma mia, ancora sono incasato. Provo a fare chiamata. Attenzione, attenzione, Italia chiama, chi ha l'ascolto, avanti. Tu sei un belame diffuso. Sì, infatti. Hai notato che molte volte non esce questo microfono se non premo bene. Beh, molte volte no, una volta l'ha fatto adesso. Ehi, quando non premo bene deve essere che il cursore, devo mettere uno spessore, devo mettere, perché deve essere, non riesco a schiacciare bene il tasto ed è proprio in fondo, deve essere la radio, capito? E poi hai visto quel PTT e quel tasto di microfono lì al contrario, cioè i normali microfoni li premi verso il basso, non nella parte bassa, quello si preme dalla parte alta. Anch'io all'inizio ero un po' così, poi ci ho fatto l'abitudine e mi piace come mic, comunque ha una bella timbrica, ottima. E quello sì, oltre a pesare una tonnellata. E che c'ho questo MB più 4, ce l'ho, c'ha il cavo troppo corto, non c'ho manco la prolunga per poterlo far funzionare qua. Sì, servirebbe una prolunga, anche cavo dritto. Poi hai notato che il cavo originale è spiralato, però c'è il mic originale, è spiralato ma è secco, è duro, non riesci a stenderlo, allungarlo, è troppo rigido. Oltre che corto è rigido. Non è adagio. Eccolo il profeta. Ciao Marco. Ciao già, e io vabbè. io ovviamente cause motivi familiari non posso andare a Zonzo, non così liberamente, poi c'è caldo, poi stiamo festeggiando la Repubblica, la festa della Repubblica delle Banane oggi. Hai detto bene. Sì, anche io sono più o meno messo come te, dai. E niente. Spalando quintali di noia e di gallo. Già, ne parlavo prima con Natalino. Allora, tu non so se fossi io, sono in mezzo influenzato, quindi è 2 o 3 giorni che non entro, non mi ricordo. Vabbè. Fatto sta che non so se hai cambiato già antenna, se la devi cambiare a breve, perché io volevo vedere un tuo segnale attenuato col 3009 prima che tu metta nuove antenne, se già non è accaduto. No, negativo, ancora non ho fatto niente. Boh, se tutto va bene, se ne ho voglia e se le cose coincidono, dovrei fare tutto. Spero questa settimana, dai, cioè nel senso fare l'acquisto, poi dopo l'acquisto ci sarà l'arrivo, il montaggio e tutte cose, quindi no, ancora non ho fatto niente. Era per vedere la differenza da attenuato col quarto d'onda e con quella che prenderai, che non mi ricordo se era mezz'onda o 5 ottavi, cosa avevi deciso? Ma questo, come si dice, questa verifica la volevi fare adesso o quando? Oh, quando capita, sì, anche adesso, però non trovo il 3009. A questo proposito, Natalini, manca l'appello il 3009 con il display blu. Io non capisco dove cacchio posso averlo messo. Ma non è che quella mia zia mi ha buttato anche quello, per sbaglio, se mi ha buttato quello me la mangio viva, Ti ha buttato l'MFG, cavolo, e quello costa 250 euro. È proprio questa la differenza tra la Grecia e la Germania. Se ti ha buttato il 3009 l'avrei tirato una fucilata prima che arrivasse a casa, avrei chiuso la finestra. Naturalmente noi pensiamo sempre MFG, diamo la buttata presunta, però chi lo sa dove può essere. Io ho guardato dove era umanamente possibile guardare, però il 3009 display blu non mi ricordo dove cacchio l'ho messo. Adesso mi devo girare tra la casa, vai, in ora buona. Uff, a meno che non sia nella cantina, ma. E che vuoi che ti dica? Adesso me l'ho messo, ma si muove questo cavolo di microfono, è troppo corto questo. Se ce l'avevo la prolunga. Quando ci ho tolto tutto quanto, anche la prolunga si è avviata. Lo so, Natalia, anche io mi perdo microfoni, mi perdo spezzoni, adattatori, ogni volta che cambio qualcosa qui, perché poi qua è sempre continuamente in rivoluzione, no? Mi devo andare a cercare tutto, per carità, guarda. Ciao Natali, buonasera. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito, grazie per essere entrato a fare queste 4 chiacchiere, dai. Ehi, cos'è questa tragedia? Ti zanina un padre baracchino, cosa è successo? No, a me non mi hanno buttato niente, me li sono venduti. Anche mio padre. Perché dice che avevo i baracchini dentro gli armadi, mi hanno anche diffamato, io mai avuto baracchini dentro gli armadi, anche se potevo tenerli, ma non ne avevo. Quelli che c'erano qua ho venduto tutto e c'ho solo l'omologato, perché sono un nilino io e quindi è meglio stare tranquilli. Roia, Bacari, dai. No, ma adesso ho sentito lo strascico del passaggio di Marco, dice che qualcuno gli ha buttato via il baracchino. E più che la zia, non è? Ma non penso gliel'abbia buttato via il baracchino. L'accordatore sì che è sparito, da molto tempo pure. Come quello che ho io, uguale. E gliel'ha fatto sparire. sarà in casa, perché poi con la memoria mia, però dove cacchio posso averlo messo un baracchino, che bel evidente. Ho visto quello con il display rosso, ma quello con il display blu non mi sovviene, non mi ricordo dove l'ho messo. Ci manca solo, ho detto che l'abbia buttato, perché qua sparisce roba, non si trova più. Quindi come trovo bustoni di roba vecchia, elettronica, cioè, buttiamo tu qua, questo cos'è, roba vecchia, qui a buttare, e magari c'è la roba buona dentro. Via, il maresciallo, natalizia, lo sappiamo, quando io dico il maresciallo vuol dire che mi via a casa. Il freddo maresciallo, ma quanti 3.000 anni vai tu? Cioè, rosso, blu, verde, Anthony, e poi, vabbè, poi ognuno sa delle cose sue, cazzo ti sparisce la roba, e ti conviene fare un bel controllo a tappeto della tua abitazione, cazzo, la vera vai a che ti spariscono le radio così, cazzo. Non è che uno di questi giorni vado qualche puntata su sai, quelle cose misteriose su D-Max o roba del genere, cazzo, spariscono i baracchini in casa di un civile. Ecco da Bergamo. Eccolo, attenzione Bergamo, se copi la città di Sassari, nord Sardegna, avanti. Nord Sassari, 7351 da Archimede, operatore Cesco, 100%, Santiago 8.5, dai Sassari con la tua sigla. K, qui operatore Marco, nominativo Marco, uguale. Allora, ho copiato solo 8.5, perché qua molte sovramodulazioni, c'è mezza Italia che chiama. E viene avanti ancora l'amico di Bergamo e dopo faremo entrare gli altri che chiamano. Avanti Bergamo. E Roger, lo sentite? Sento Santiago 8, radio 4, qua in quel di Bergamo, la mia sigla. Mario di Vincenza, nord dell'Italia. La mia sigla è Archimedia, ancora per te. Sì, sì, confermo. Mi dispiace al micro di Bergamo, capito Francesco, però molte sovramodulazioni, anche europee. Comunque il tuo segnale è 5.9, quando non ci sono sovramodulazioni, il tuo segnale, la tua modulazione è anche ottima. Vediamo se ti copia qui Natalino da Sassari. Vai Natalino. Avanti Francesco, con la buonasera. Il rapporto per te 5.9 qua. Avanti Francesco, Natalino Alfa 1 da Sassari, cambio. Ciao Natalino, ma forse ci siamo anche già sentito. Io sono Archimede in Berco, a me è un po' di propagazione balbana. Natalino, copi di Chiesa, nord dell'Italia. Natalino di Sassari, copi di Chiesa, nord dell'Italia. Ricopiamo tutti, però c'è troppo bailame qua, stavo parlando con l'amico di Bergamo, a uno vi facciamo entrare, non c'è problema, ti ascolto Nord Italia, un attimo, avanti ancora a te Marco, farai entrare l'amico Gianni per l'amico Francesco di Bergamo. K, sì, confermo Archimede, già sentito il nominativo, va bene, adesso rilanciamo Gianni da Sassari, dopodiché faremo entrare l'altro amico dal nord Italia che sta chiamando, vai Gianni per Archimede. Ciao Archimede, buonasera, qui Gianni il profeta, sempre dalle coordinate di Sassari, ti ascolto bene, ogni tanto vieni sovramodulato dalle tante chiamate che arrivano dal nord Italia, oggi la propaganda è a nostro favore, è bello sentire il nord Italia che chiama, con i saluti ti do il mic, avanti. Natalino, Mario, Gianni di Sassari, copiate nord Italia Vicenza, stazione Angelo, QTH Vicenza. Troppe sovramodulazioni, c'è l'amico Angelo che sta chiamando, ti ho sentito, Santiago 8 Radio 4 qua, nella città di Sassari, Natalino Alfa 1 il nominativo della mia stazione, avanti ancora a te Angelo di 73, questa è la... Qui del nord dell'Italia, Vicenza, 73 cordialità, per tutto QRF familiare. Ok, rapporto per te Santiago 9, Radio 5. ok, sei copiato Angelo. KQSL, copiato al 100% Angelo, grazie del rapporto, ti passo all'amico Marco, avanti Marco per l'amico Angelo. K, copiato Angelo da Vicenza, segnale 99 più, radio 5. Vediamo un po' se mi copi. Marco da questa parte, sempre nella città di Sassari, nord Sardegna. Avanti Angelo. Ok Marco, ti copio Marco, se mi stai copiando, vedi Angelo da quel gatto di chiese, vedi tre cordialità da parte mia, rapporto per Vicenza e 95, vai caso Angelo. K, copiato al 100, comunque c'è il QSB, comunque vi ascolto, il QSB varia il vostro segnale con continuità, però la ricezione è buona, è che ci sono parecchie stazioni sotto che chiamano anche dal, credo dal nord Europa. Va bene, io stacco un attimino, Gianni riprendi tu, io per la cronaca sono con la suppostina e non sono liscio. Bene, ciao Angelo, ben sentito, ben entrato, 73 anche a te, dai, sempre qua dalla città di Sassari, operatore Gianni, stazione Il Profeta, comunque sempre dal nord Sardegna, avanti con i saluti, ti giro il mic. Vedi, è calata la propagazione, Gianni. Marco, pure Natalino, vi siete spariti, o c'ho l'anda che mi sta coprendo, o non è offendo al 5%, ma super senatori. Copiato Angelo, c'è molto QSB e molto bailame dovuto alla propagazione, non so se mi copi, qui Gianni il profeta dalla città di Sassari nel nord di Sardegna, avanti il mic. Sì, c'è una cozzaglia sotto di propagazione incredibile. È sparito, c'è un bel po' di sovramodulazioni, quindi è un peccato, dai, vabbè, già siamo qua. Infatti, non c'è problema, sai che c'è troppo bailato, anche ci sono anche stazioni dal nord Europa, penso, e quindi succede un po' di ciambotto, diciamo così. Comunque con 4 watt ero io, Marco, E allora, Natalino adesso mi comincia a dare la filo a torcere, capito? Lui 9, 4 watt, io solo 9,5, con credo che siano sotto i 50, sotto i 50, perché questo baracchino ci avrà sì e no 3 watt di portante modulata, e quindi 50 li dà con 4 watt veri, qua ne starà dando 40 seppure, 45 dai, intorno ai 40 fai, ecco. Quindi è una suppostina, non è proprio una scarpetta. Vai Gianni. Eia, sì, anche io con 4 watt, 4 watt della casa, niente di più, niente di meno. E niente, dai, sono entrato proprio nella fase calante della propagazione. Mi sarebbe piaciuto sentire, avere un feedback sul segnale, vabbè, ma non ci sono problemi, dai, no. Ho messo il bip proprio per le occasioni speciali. No, ma io non lo posso togliere il bip, rimane, questo qui non si può togliere, figurati un po', è che maledizione, questo è chiuso, è omologato, non ha neanche canali di su, quindi non posso andare a farmi qualche DX in banda laterale come si deve, capito? Sì, Natalì, conviene lasciarlo tutto come mamma l'ha fatto. Ah, per Marco, ma ti ho fatto una domanda però non mi hai risposto. Ma quanti 3.009 c'hai? Ah, c'hai ragione già. Due. Uno display blu e uno con display rosso. In realtà il mio sogno era avere un altro 3009 e farlo col display verde, comprare proprio il display a cifre verdi come quello tuo, però che fosse un normale 3009 senza frequenzimetro, sempre con la luce bianca o LED bianco per lo smitter e le cifre verdi. Mi sarebbe piaciuto avere il trio Drake. Vabbè, ma mi hai detto che uno è sparito. Ma erano tutti e due smanettati o che cosa? No, no, uno è omologato, quasi omologato, no, ogni tanto l'omologo e lo disomologo, c'è il ponticello, che adesso l'ho messo modalità 240 in modo da far lavorare la sezione elettronica, che se no non lavora mai, magari si fotte, ecco. E poi l'ho risposto in 40 canali normali, torna come di fabbrica, capito? Invece quello display rosso era omologato, adesso non lo è più. Ho capito. Quindi quello rosso è quello che pompa di più, dai. Sì, però conta una cosa, io i watt li ho lasciati originali, 4M 12 SSB, perché? Perché puoi pilotare meglio le suppostine, le scarpette, come vuoi chiamare. Invece il trimmer dalla M nel rosso è aperto, e infatti di modulazione pompa molto di più. Beh sì, sì sì, vabbè, cazzo, il mistero del 3009 blu. Oh yeah, cazzo di mi ha conso un po' gareggio. Cosa volevo dire? Adesso mi sfugge. Niente, là, se me lo ricordo ve lo dico. Avanti, Natali. Aspetta che sto mettendo la pezzurina al cane. No, credo di aver ricordato dove l'ho messo, perché io ho probabilmente un inizio di Alzheimer. Credo di averlo messo in quell'armadio, nella camera ponte. Mi pare che mi serviva spazio, l'ho sbattuto là. Adesso controllo, verifico. Te l'ho detto, puoi vedere il tuo segnale normale, con i 4 watt e il quarto d'onda, e poi quando metterai l'antenna vedere le differenze in decibel o in Santiago, in più e me, in più no, possibilmente in più. Ma perché, cosa stai usando adesso? Il McKinley o il President? No, un CRT. Ma quello col display blu? No. Vabbè, il display è multicolore, può essere anche blu, dipende da come la guardi. Comunque quello nero, dai, quello con un sacco di manopoline, display grande, forse me l'avevi fatto vedere, mi pare, dovrebbe essere quello, dai. Sì, comunque appena rientra a Talino vado alla ricerca del 3009 perduto, dai. Se è attendibile quell'apparecchio, puoi già guardare, ti prendi l'appunto del segnale. Adesso no, comunque fai come credi, dai, non è un problema, così almeno te lo scrivi, te lo annoti, nel caso quando farò l'upgrade, così vediamo che tipo di incremento c'è stato, dai. No, allora questo in dettaglio, questo con cui ti parlo, completamente inattendibile. Schmitter a LED, allora, praticamente che tu arrivi da 0 a 8, o meglio partiamo dal 5, 5, 6, 7, 8 segna sempre 5, dal 9 al 9,15 segna 9, oltre il 9,15 9,30, ma molto versatile. Ho capito, dai. Vabbè, dai, quando attacchi l'altro apparecchio vediamo. Tarato. Ce l'hai la denuncia di furto? Con il K. È uguale al K, questo. Lo smister. Aspetta che levo il bippi. Levate il bippi. C'ho la voce ancora raffreddata, mi dà un fastidio. Cazzo, raffreddata, cos'è? Corpo d'aria, un ghiaccio gaggio. O corrente o condizionatore acceso? No, questa è una cosa che sta passando da amico, in parente. Cosa ne so, adesso mi dice la tabella, mi devo passare il paiolo delle scimmie e poi vediamo cos'altro arriverà. Ci facciamo il campionario di malattie. Questo periodo, Per carità, voi. Ho dato anche la prolunga dell'MB più 4, adesso non c'ho manco prolunga per l'MB più 4. Dimmi tu, mi viene così male, e non c'ho manco gli spinetti, se no me l'avrei fatta un'altra. Propagazione. Fischi e fiaschi, bobo. A quell'immagine da Santiago 7 che avevo del QRM, adesso c'è lo Santiago 2, ma ce n'è differenza. A voglia, con tutto quel marciume che ci avevi nel cavo nell'antenna, crocro. Non è solo quello, non è solo quello, il PL verde ne è uscito, mi si è rotta la ghiera, la sbavatura della ghiera, me ne è uscito la ghiera intera dal PL, che è impossibile, me ne è uscita tutto marcio il PL, dimmi tu, adesso. Eia, tutto frase, guardate. Ma bucce tutto, da quanto l'avevi piazzata quell'antenna? Un paio d'anni, 2-3 anni? Ma 5 anni mi sa che ce l'avevo. Però dopo ha cominciato a entrare acqua, anche se era vulcanizzata, ma lo sai quanto abbiamo sudato a togliere il nastro vulcanizzante da quell'antenna, non ne hai idea, solo che è entrata acqua nella bobina e mi rimaneva a bagnomaria, e da un buco è entrato, c'era un buco, ecco, abbiamo scoperto anche da dove entrava l'acqua. Adesso è frase gado tutto. Sì, poi come mette l'ossido, l'umidità, ma dai, diventa tutto verde. Diventa tutto verde. Anche il cavo, bacchari dai. Vabbè dai, ormai fa parte del passato. Infatti, il cavo addirittura, il polo caldo nero, la calza nera, l'ho dovuta pulire per farla diventare come ti ho fatto vedere in fotografia, già. Se no era tutto nero, l'ho dovuto buttare via quel cavo. Già ho messo quello nuovo, messi e paroni, quello è di lusso, PL nuovo, perché meno male che ce li avevo i PL, non mangio più, bisogna me li ordini, quando li ordina Marco me li ordino anche io, quelli ampe non li compro però, perché dovrò mettere altre antenne e quindi... Ho prestato dei soldi a un uomo. Mi servono i PL come si deve per quelle frequenze lì. Ho capito. Adesso vediamo un po' se questa settimana riesco a fare quest'ordine. Se tutto va bene, se non ci sono intoppi. E facciamo un upgrade anche qua, dai. Mettiamo l'antenna, il cavo buono, i PL e poi quell'altro microfonino da mettere qua sull'Uranus, dai. E poi siamo a posto, anche un piccolo, e anche un alimentatore, però di quelli tipo computer, quelli neri sigillati, non ne voglio a trasformatore o switching, prendo uno di quelli buoni, tanto per alimentare il baracchino ce n'è per i porci, piccolo, compatto, lo puoi nascondere dappertutto e niente, non scalda eccessivamente. Quello lo posso recuperare anche qua a Sassari, anche dai cinesi volendo, costano poco quelli, dai. E K, vabbè, io ho eliminato anche il TVI, a quel signore gli ho messo a posto l'antenna e quindi non ne faccio più. Meglio così. Ma Marco, ci sei ancora o stai andando a recuperare il 3009? No, sono qua. Allego foto, questo qui che sto usando adesso. Dai un'occhiata, una binocolata. Eia, ma l'hai trovato il 3009? O non c'è neanche, non hai neanche ancora iniziato? No, perché io ho una cantinetta, una cantina, diciamo, piccola, microscopica, no, peraltro non accantonata, ufficialmente non esiste, e il grosso della roba la tengo lì, delle radio. E quindi ogni tanto, cioè, se no qua non ci sta nulla, capito? Può essere che l'abbia depositato lì. Ah, ho capito, mentre l'altro è disponibile, sì, ce l'hai a portata di mano. Sì, però è già diverso lo Smitter, cioè io mi fido più di quello blu, di spray blu. Ho capito, sì, sto guardando le foto. C'è una col tastino Plema, sì, immagino, ero convinto che era un video. Aspetta, guardo l'altra, anche quella, sì, un fotogramma di un video, sì, ho capito. Ero accorto di foto, stavo erroneamente mandando i video, ma erano lunghi, allora ho messo la schermata la thumbnail, come si chiama? Thumbnail del video, dai. Ho capito, la miniatura, dai, in italiano. bravo, miniatura, ecco. Bene meda, Luia. Adesso non tiene un filo all'aria, ragazzi. Non si muove.